in primo piano. Che andiamo subito a vedere con le aperture dei principali quotidiani. Ovviamente siamo sempre lì, insomma, a domenica a Piazza del Duomo. L'amarezza di Berlusconi colpito nella mia Milano è l'apertura del Corriere della Sera. Il PDL all'attacco di Fini per Repubblica. Tregua finita, scontri in aula per La Stampa. Alcuni altri giornali. Occhio alle brigate matte, questo è il titolo di Libero. Tartaglia è già un idolo. Per Il Giornale invece schiaffo di Fini al premier ferito, l'idillio è durato un solo giorno. L'Unità invece a che gioco giocano e mette una scacchiera in prima pagina, il quotidiano di Concita De Gregorio, parlando di veleni del PDL, di attacco ai giudici, di piazze controllate, di leggi speciali in arrivo contro internet. Il partito dell'amore invece è l'apertura del Manifesto, ma vedremo le altre aperture. Io intanto voglio andare a, insomma, capire come commentano i giornali il terzo giorno di Berlusconi in ospedale, anche se uscirà oggi. Il Cavaliere, io su quel predellino per rassicurare i miei figli. Oggi lascerà l'ospedale, leggo dal Corriere della Sera. Insomma, continua la processione anche di persone che sono andati a incontrare, a fare visita al Presidente del Consiglio. Qualche frase strapolata qua e là da ovviamente chi esce e racconta un pezzettino di della degenza di Berlusconi. Non volevo che i miei figli potessero apprendere la notizia dalle TV e temere che fossi morto, ecco perché sono salito sul predellino. E poi per un attimo, sentendo tutte quelle urla, ho avuto paura che volessero uccidere chi mi aveva aggredito. Questo, insomma, fa il pane un po' con il messaggio che Berlusconi ha lanciato dall'ospedale San Raffaele. Quel messaggio, l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, che abbiamo sentito, una frase sicuramente molto, molto forte, molto, molto emblematica. Tra l'altro, tra coloro che sono andati a trovarlo c'è anche Lino Banfi. Lino Banfi dice: ho fatto carte 48 per riuscire ad andare a trovarlo, gli ha anche regalato un libro, quello di Ronzo Canà, uno dei suoi imperdibili personaggi interpretati, no? Quello dell'allenatore di calcio. C'è sul Corriere della Sera anche Veronica Lario. Veronica scrive al marito il biglietto: sono addolorata. Una lettera breve, scritta come d'abitudine in stilografica nera, con la sua calligrafia ordinata. A chi l'ha sentita, Veronica Lario ha confessato stupore e incredulità. Assurdo, non me lo sarei mai aspettato. Sono addolorata per uno come Silvio, abituato a stare tra la gente. Non sarà facile da questo momento in poi. Come ha ricordato anche Berlusconi dal suo letto d'ospedale: sono pur sempre il padre dei suoi figli, ma i due da mesi non si parlano. Questi sono alcuni virgolettati. Vabbè, lasciamo, diciamo, Berlusconi alla sua tranquillità in ospedale per quel che riguarda le visite, e veniamo invece all'aspetto di commenti e quant'altro. Beh, intanto inquieta sia sul Corriere sia sul Messaggero il fatto che alla Sapienza di Roma, all'Università Sapienza, siano apparse delle scritte pro Tartaglia, alcuni striscioni. Saremmo tutti psicopatici? E poi Massimo Tartaglia, a Natale si può fare di più. C'è sul Messaggero, alla Sapienza, striscioni pro Tartaglia. La Gelmini, il ministro, dice: grave, inaccettabile. Lo stesso rettore Frati: atto vergognoso, sono indignato, non ci sono parole per descrivere un gesto così stupido e incivile. Ho chiesto alle forze dell'ordine di identificare gli autori dei cartelloni. Nel caso si trattasse di studenti dell'Ateneo, non esiterò a prendere subito provvedimenti disciplinari. E continuo a ripetere: un atto vergognoso e inaccettabile. Tanto che Libero, che mette proprio in prima pagina occhio alle brigate matte, e mette anche le foto, gli studenti dell'odio. C'è chi ha scritto una medaglia per Tartaglia all'Ateneo di Torino. C'è appunto questo striscione: Massimo Tartaglia, a Natale si può fare di più, apparso alla Sapienza, con il vice direttore Mario Secchi che si chiede: sono tornati gli anni 70? E poi il volto insanguinato di Berlusconi, per molte è il segnale che la caccia è aperta, si può fare, si può dire di tutto. E scrive Secchi: ancora una volta è l'università che mostra segni e simboli inquietanti. I prossimi mesi saranno cruciali, scopriremo presto quanto siano cresciuti i semi dell'odio sparsi in questi 15 anni. Le università in Italia sono state incubatrici di violenza e alcuni fatti accaduti di recente sono significativi. Dunque, occhio all'università, è da lì che partì molta della violenza degli anni 70, Libero, anche con Giampaolo Pansa, insiste, vi ripeto, attenti, tornano gli anni 70. Tra le varie interviste segnalo un'intervista a Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, l'ha intervistato Fabio Poletti per La Stampa. Come sta suo fratello? Ovviamente anche lui è andato a trovarlo. Prova molto dolore, ha il volto bendato e a letto, continua a voltarsi da un fianco all'altro per i dolori. Ma c'è non solo il dolore fisico, il suo morale ondeggia tra lo sbigottimento e la voglia di reagire. Certo, poi se solo lo conoscessero davvero tutti questi che lo contestano, sono davvero che molti cambierebbero idea. Mio fratello è un buono, non porta odio né rancore per nessuno. Certo, ha saputo su Facebook che c'erano siti dove si inneggiava l'aggressione di Tartaglia, è rimasto molto male, un dolore vero che si aggiunge al dolore. Questo dice Paolo Berlusconi. Tra le varie interviste segnalo anche Goffredo Buccini sul Corriere, intervista a Luigi De Magistris, deputato dell'Italia dei Valori, che dice: il premier ha diritto a stare tra la folla, non si può mica dire al presidente del Consiglio stattene chiuso in casa. Berlusconi ha il diritto di scendere in strada, il punto è proteggerlo. Non voglio insinuare nulla, ma con la sicurezza che ha, dice De Magistris, stupisce sia stato colpito. Da ex PM sono abituato ad attendere l'esito delle indagini, ma certo insinua un po' questo dubbio. E poi De Magistris parla del tema politico sicuramente del giorno e anche il tema del nostro sondaggio, le parole di Fabrizio Cicchitto, che appunto ha fatto un elenco in dibattito alla Camera di quelli che sarebbero secondo lui le persone, i gruppi anche editoriali che hanno armato Tartaglia. Penso che Cicchitto usi parole da peronismo del terzo millennio, lo scriva, noi non ci faremo intimidire. Sul fatto andrebbe a trovare Berlusconi in ospedale, De Magistris risponde: no, è una passerella. E veniamo appunto a queste parole, parole molto dure di Fabrizio Cicchitto, con l'analisi politica dei vari commentatori che dicono è già finita la tregua invocata da Napolitano. Per esempio sulla prima pagina della Stampa Michele Brambilla: la farsa della pace, com'era facilmente prevedibile, siamo già qui a officiare il funerale del normale civile confronto invocato da Giorgio Napolitano. Il normale civile confronto in Italia rientra a pieno titolo tra tutte le più belle cose cantate da Fabrizio De André. Vivono solo un giorno, come le rose. Un giorno in cui si è dato sfoggio a tutta quella retorica che è lì nel vocabolario dei politici, sempre pronta a essere riesumata, la retorica per la quale la condanna è sempre ferma. Insomma, dice Brambilla, non è nostra intenzione fare una classifica per stabilire chi si è rivelato più incontinente. Tuttavia non può non colpire un fatto. Nelle ore successive al ferimento del premier è stato il centrodestra a reclamare a gran voce un abbassamento del livello dello scontro. Sarebbe stato quindi ovvio attendersi un comportamento che desse immediatamente il buon esempio. E invece si è partiti da un attacco del giornale già lunedì mattina che ha parlato di una regia dietro la violenza in un articolo che ha indotto Casini a sporgere querela. E stiamo parlando di Casini, non di un incendiario. Insomma, le parole di ieri di Cicchitto sono analizzate un po' tutti, devo dire, in maniera più critica che altro. Fini dice, o direbbe, Silvio fermi i falchi, lo stanno danneggiando. È il retroscena politico, come di consueto, di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. La visita di Bersani a Berlusconi non era un gesto di cortesia, ma un fatto politico. Era, secondo Fini, una mano tesa per il dialogo. E per tutta risposta, questi sono virgolettati, ovviamente non è che sono interviste, ma Fini avrebbe detto: e per tutta risposta il mio partito cosa fa? Prima Cicchitto lancia una bomba Molotov nell'aula di Montecitorio con un discorso sull'aggressione al premier che pareva scritto da Feltri. Poi Tremonti pone con arroganza la fiducia sulla finanziaria. Chiamatemi Berlusconi, per favore. Stavolta sono convinto che Silvio non c'entri nulla. Così sarebbe nata la telefonata che Fini ha fatto al premier in serata. Ancora virgolettati, insomma, attribuiti in questo retroscena a Fini: ascoltando l'intervento di Cicchitto pensavo si trattasse di un capo degli ultra, non volevo crederci, e dire che tutti avevano concordato sul fatto di evitare polemiche e incendiare gli animi dopo quanto era accaduto. Tanto che in prima pagina di Repubblica Ezio Mauro, il direttore, risponde allo stesso Cicchitto, perché Repubblica è stata identificata come uno degli artefici di coloro che avrebbero armato la mano a Tartaglia. da Cicchito, ma poi la voce alle 8.30 la sentiremo dello stesso capogruppo alla Camera, del suo intervento ieri. Servono due parole per rispondere all'onorevole Cicchito, scrive zio Mauro, che scambiando l'aura di Montecitorio per un bivacco piduista si è permesso di accostare il nome di Repubblica a quello dell'aggressore di Berlusconi in Piazza Duomo. Napolitano aveva appena invitato tutti a fermare la pericolosa esasperazione della polemica politica e Berlusconi aveva ricevuto la solidarietà di amici e avversari nella condanna senza riserve. Ieri Cicchito si è incaricato di ripristinare immediatamente il clima di guerra, senza il quale l'anima più ideologica e rivoluzionaria, nel senso di Licio Gelli, non di Mussolini, della destra, non riesce a sopravvivere e esprimersi. E poi, insomma, ancora zio Mauro dice nel pezzo intitolato Il dovere di un giornale: Cicchito, che è un uomo delle istituzioni, non conosce il concetto laico di pubblica opinione, solo la raffigurazione mistica del popolo che soppianta i cittadini. A questo avvelenatore di pozzi, piccolo imprenditore dell'odio ideologico che attribuisce ad altri, dobbiamo soltanto ricordare quel che abbiamo scritto domenica, quando uno squilibrato ha colpito il Presidente del Consiglio. Nel discorso pubblico democratico la piena libertà di Berlusconi di dispiegare le sue politiche e le sue idee coincide con la nostra piena libertà di criticarlo. Altro tenore sul giornale. Il giornale riprende in qualche modo l'attacco a Fini. Schiaffo di Fini al premier ferito, è il titolo di prima pagina. Vittorio Feltri fa un editoriale molto diretto: la pace e la concordia sono durate un sol giorno, come le farfalle. Gianfranco Fini, dopo aver abbracciato lunedì Berlusconi nel suo letto di dolore, ieri gli ha mollato uno schiaffone a distanza, tanto per fargli capire che un conto sono i rituali del capezzale e un altro è la politica. Le ostilità permangono, si annunciano nuovi scontri, non c'è requie, scrive Fini. Da qui a gennaio ci toccherà assistere, scusate, scrive Feltri ovviamente, da qui a gennaio ci toccherà assistere al consueto vecchio teatrino. Fini che cerca di ritardare il varo di provvedimenti urgenti e cari a Berlusconi, la sinistra che incoraggerà il presidente della Camera a esercitare i suoi poteri ostativi. L'idillio è già finito, i cittadini ne trarranno le conseguenze, Berlusconi faccia altrettanto. Ovviamente trovate anche moltissime critiche, praticamente Il Fatto Quotidiano, indicato anche da Cicchito come proprio Il Fatto, come una delle cause morali, insomma, di questo, di quello che è avvenuto, di questa aggressione. L'uomo della P2 aggredisce Il Fatto. Alla Camera il capogruppo del PDL accusa anche il gruppo Espresso di avere armato la mano di Tartaglia. All'interno c'è anche Luca Telese che fa un ritratto di Cicchito, quel sorriso da Joker, dal marxi cicchittismo al cicchi berlusconismo, un titolo un po' così, un po' complicato. E poi, insomma, varie pagine dedicate al clima politico. In primo piano. In realtà, prima di passare ad altro, devo anche citare che, insomma, c'è un Antonio Polito, direttore del Riformista, che in prima pagina scrive perché non vado ad anno zero e spiega molto precisamente il perché. La presenza di Marco Travaglio, un sedicente combattente per la libertà di informazione che sta facendo una campagna di stampa per la chiusura di un giornale, quello che dirigo. Lo stesso cattivo maestro che, citando un suo sodale, ha scritto l'altro giorno sul blog di Grillo l'elogio dell'odio. Non è certamente un terrorista mediatico, come ha detto Cicchito, ma è un parassita mediatico, certamente sì. Sul fronte dell'inchiesta invece c'è da dire, questo lo cita il Corriere della Sera, Tartaglia al giudice: mi piace Di Pietro, anch'io sono abbastanza d'accordo con il PD, ha detto, ma quello che mi piace di più è Di Pietro, l'Italia dei valori dice cose giuste. Questo avrebbe detto l'aggressore, giusto per mettere altra benzina sul fuoco. È il nostro sondaggio, condividete le parole di Cicchito, che ha detto c'è una campagna condotta da anni e portata avanti ultimamente da Il Fatto, Anno Zero, il gruppo Espresso Repubblica, l'Italia dei valori, alcuni magistrati che hanno armato in qualche modo la mano a Tartaglia. Condividete queste parole, votate, poi ne parleremo alle 8.30. Prendo Il Sole 24 Ore, l'apertura: lo scudo fiscale prepara il bis. È una notizia che avevamo visto ieri in anticipazione come possibilità, Perché? Perché ieri si è chiusa la finestra per lo scudo fiscale Terra, ma già si parla dello scudo fiscale Quater. Marcegaglia, presidente di Confindustria, ora serve una forte semplificazione delle regole tributarie. L'operazione scudo fiscale si è chiusa ieri, appunto, ma è sempre più probabile una riapertura. La parola definitiva spetterà al governo, si deciderà entro venerdì presumibilmente. Tra le ipotesi c'è quella di uno scudo quater con inizio il 1 gennaio e scadenza il 15 aprile 2010, da varare con il decreto mille proroghe. Tra l'altro, per le nuove regolarizzazioni i rimpatri di capitali si punterebbe su un'aliquota del 6-7%. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia dice potrebbe essere un'opportunità, cui deve seguire però poi una forte semplificazione delle regole tributarie da affiancare alla lotta all'evasione fiscale, che deve continuare e diventare più incisiva. E tra l'altro, all'interno dell'articolo Scudo già pronto a ripartire, che trovate a pagina 5 del Sole, c'è Marco Mobili e Dino Pesole che insomma fanno una intervista ad Attilio Befera, il capo direttore dell'Agenzia delle Entrate. La missione 2010, lotta all'evasione internazionale. Per noi è essenziale continuare su questo punto. La Guardia di Finanza si sta già rafforzando per potenziare la sua azione sul campo, dice Befera. Inoltre manteniamo ferma l'attenzione sul fenomeno delle compensazioni fraudolente. Ovviamente però non si sbilancia per quel che riguarda le stime di questi 114 miliardi che ieri il Sole faceva aleggiare come frutto, insomma, del rientro di capitali per lo scudo fiscale Terra. È ancora troppo presto per fare cifre, per trarre conclusioni e fare cifre, dice Befera. Ci sono anche le code delle ultime ore che fanno ben sperare sul successo pieno dell'operazione, ma al di là dei numeri l'operazione scudo fiscale va considerata molto positivamente, dice Befera. Segnalo anche dal Sole 24 Ore un'iniziativa lanciata dal quotidiano e che ieri ha vissuto un momento decisivo, importante. Sapete che il Sole 24 Ore ha lanciato, soprattutto dopo l'ultima strage di italiani, soldati italiani a Kabul, aveva lanciato l'idea di costruire un memoriale che ricordi i caduti per la pace. Dal 1950, quando cadde il primo Pio Semproni a Mogadiscio, sono 139 militari morti in missioni internazionali, tra l'altro non solo militari. Tra loro appunto ci sono 13 soldati uccisi a Kindu nel Congo nel 1961. Ebbene, ieri c'è stata la presentazione ufficiale alla Camera di 30 bozzetti che coinvolgono tra l'altro architetti di fama mondiale, Daniel Libeskind, tanto per citarne uno, oppure lo svizzero Mario Botta. C'è anche un intervento di Gianni Letta, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in prima pagina sul Sole 24 Ore. Ieri leggerete tutto a pagina 2 di come questo progetto sta andando avanti, anche con l'intervento di Rosa Calipari, la vedova di Nicola Calipari, Gianfranco Paglia, che fu ferito ed è su una carrozzina da quel giorno in Somalia, a Mogadiscio, oppure il padre di Massimo Ficucello, Alberto Ficucello, morto a Nassiriya. Insomma, un'iniziativa meritoria che sta andando avanti e che ieri appunto ha vissuto un momento importante. Siamo alle segnalazioni conclusive. Voglio segnalarvi dal Corriere della Sera: consulente del governo, super evasore. Davvero è una storia incredibile. Il consulente giuridico della Presidenza del Consiglio, noto avvocato, ex magistrato con un curriculum inattaccabile, una strabiliante pletora di incarichi in enti pubblici e società di servizi, evadeva il fisco per milioni di euro, con uno stratagemma da dilettanti. Le sue fatture erano emesse con una partita IVA taroccata, formalmente aperta per l'esercizio di un bar. È incredibile, aveva lavorato con tutti, da Dini a Berlusconi, un personaggio di un tale spessore culturale e professionale. Si lascia sfuggire un investigatore delle Fiamme Gialle. Si tratta dell'avvocato Giovanni Pascone, 47 anni, super consulente dei governi, sia l'attuale che i precedenti, con un passato da magistrato nella Corte dei Conti, consigliere del TAR, e tra l'altro accusato appunto di non aver dichiarato al fisco compensi per 40 milioni di euro. E l'accertamento non è stato frutto del caso, l'impulso forse è venuto da una soffiata per invidia o rivalse personali proprio dalla Presidenza del Consiglio. Vi lascio con questa notizia, insomma, Poi ci sarà l'accertamento, ma Fabrizio Peronacci ne scrive a pagina 29 sul Corriere della Sera. Ci fermiamo qui, ricordo il sondaggio, le parole di Fabrizio Scicchitto, capogruppo del PDL alla Camera, ieri, che ha detto i mandanti, coloro che hanno, non i mandanti, coloro che hanno con la loro campagna d'odio contribuito ad armare la mano a Tartaglia sono Il Fatto, Il Quotidiano, Anno Zero, Repubblica, alcuni magistrati, Travaglio, definito terrorista mediatico. Che ne pensate? Siete d'accordo con queste parole? Votate sì o no su radio24.it, ora GR24.